Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi incontriamo Luigi Pirandello, il grandissimo innovatore del teatro del Novecento, che fu insignito, come ricorderete, anche col Nobel per la letteratura nel 1934. Si accosta, o meglio ritorna, al grande scrittore di Agrigento, il giornalista e scrittore Matteo Collura, che conosce bene Pirandello. Tra l'altro ricorderete che proprio lui si prestò a fare l'intervista impossibile con Luigi Pirandello qualche mese fa su questa trasmissione. Il suo libro si intitola Il gioco delle parti, vita straordinaria di Luigi Pirandello, è pubblicato da Longanesi, 356 pagine, 18,60 euro. Parlare di biografia in questo caso è riduttivo. La vita di Pirandello fu complicata, difficile, segnata da un matrimonio fallito con una donna che alla fine venne ricoverata in casa di cura, ma che aveva subito manifestato la sua insofferenza per suo marito. Pirandello le rimproverava l'indifferenza all'arte, i suoi sospetti, la sua morbosa gelosia. L'avrebbe addirittura definita una donna incapace di intendermi e di sentire elevatamente. E poi nella vita di Pirandello irrompe una passione, quella bruciante per un'attrice molto più giovane di lui, Marta Abba, che aveva conosciuto nel 1925. Un'attrice alla quale era capace di scrivere parole come queste nelle sue lettere: la mia arte sei tu, senza il tuo respiro muore, tu stai creando e non lo sai, tu con la tua potenza della tua arte, coi toni della tua inimitabile voce, col fulgore dei tuoi occhi, con l'ardore che dalla tua mente, dal tuo cuore, da tutta la tua persona è venuta in me. È sempre il tu o tuo è scritto con la lettera maiuscola. Il libro di Collura cerca dunque di scavare nella complessità della vita di Pirandello, di cui si trovano poi naturalmente frequenti echi nella sua opera, che nel libro è abbondantemente richiamata, così da consentire anche di riaccostarci ai suoi titoli più famosi. E quindi, più che una biografia, questo è uno scavo psicologico presso un autore, uno scrittore capitale, i cui tormenti hanno certo contribuito in modo decisivo alla definizione della sua opera e della sua arte. Ma sentiamo l'autore. Buongiorno Matteo Collura. Buongiorno. Matteo Collura, descrivendo l'incontro che Luigi Pirandello ebbe a Princeton con Einstein, lei scrive che mentre lo scienziato sembrava giocare con la vita, Pirandello sembrava subirla. Ecco, che cosa ha rappresentato per Pirandello subire la vita? Ma il senso di questo mio racconto, appunto, della vita di Pirandello è un'infelicità esistenziale tremenda, insomma, direi più unica che rara. Non c'è stato mai nel corso della sua esistenza un momento di gioia, di piacere, anche fisico. C'era sempre questo senso del peccato, del rimorso, della pena di vivere, ecco, questo è, per questo dico. Einstein era un uomo che, diciamo, lavorava con l'intelletto, era un grandissimo fisico, ha avuto il premio Nobel come Pirandello, però dimostrava anche di prendere la vita in maniera anche gioiosa, anche, diciamo, con leggerezza. Ecco, Pirandello non l'ha mai fatto, intanto è vero che nelle foto che documentano quell'incontro, in un college americano, siamo nel 35, ecco, è estate, e credo sia luglio, Einstein è a torso nudo con un paio di pantaloni così che gli arrivano a metà polpaccio, insomma la giacca, in un'altra la giacca però indossata sul torso nudo direttamente, cioè, mentre Pirandello è sempre col suo papillon, il doppio petto, scarpe allacciate, insomma la giacca, anche quando è disteso su una copertina a terra, perché probabilmente si preparavano a fare un picnic. Ecco, questa infelicità esistenziale, lei scrive, facendo un po' il bilancio alla fine, nelle ultime pagine della vita di Pirandello, che lo portò anche a coltivare uno smisurato egoismo. Sì, per difesa. Intanto teniamo presente che Pirandello è un artista, e come tale è un egoista, e gli artisti, credo che la costante, diciamo, degli artisti è quella, per esempio, dell'egoismo più o meno smisurato. Ecco, nel caso di Pirandello è smisurato, ma perché gli serve anche da difesa, perché è un uomo, e lui lo dice quando ringrazia a Stoccolma per il Nobel. Lui dice proprio che è un uomo non attrezzato a vivere, cioè nel senso ha una ingenuità di fondo, una innocenza di fondo che non attenua mai, ecco, gli rimane fino alla fine. Questa ingenuità lo porta ad avere delle brutte sorprese, insomma, a ricevere anche così degli schiaffoni dalla vita, ecco, per questo l'egoismo gli serviva come corazza, ecco, nei confronti dei suoi familiari, nei confronti di chi a cui era affezionato, nei confronti degli impresari, degli attori, insomma di tutta la gente che conobbe. Ecco, fermiamoci un momento sui familiari. Lei descrive bene il rapporto che ebbe con Stefano, col figlio che lo aiutava anche a scrivere, e questi a un certo punto lo rimproverò di essersi cacciato in un vicolo cieco, di avere disamore lui, Pirandello, Luigi, per la sua stessa vita, quindi era un rapporto difficile anche appunto con i figli, con i parenti. Sì, sicuramente. Il rapporto con i figli è quello proprio del carnefice con la vittima, in cui non si sa bene a un certo punto chi è il carnefice e chi è la vittima. Per esempio il figlio Stefano è un uomo che si è annullato totalmente nel padre, lui se ne lamentava, ma in realtà era proprio una paradossale situazione di padre che condiziona il figlio, insomma, che insomma il figlio addirittura scriveva delle cose, il padre le firmava, c'era una sorta di simbiosi perfetta. Questo però diciamo che fu un male per Stefano, perché avendo scelto di fare lo stesso lavoro del padre, cioè il drammaturgo, è chiaro che non ebbe nessuna chance. Lui tentò di cambiarsi fino anche il nome, Stefano Landi era il suo pseudonimo, ma non funzionò, ecco, lui si annullò nel padre, e questo poi quando il padre morì nel 1936, quando poi i figli crescevano di Stefano, lui lo diceva ai figli, insomma si pentiva di essersi dato così tanto al padre. E poi c'è la sorella di Stefano, cioè Lietta, la figlia che Pirandello amò moltissimo, al punto che la moglie sospettò che ci fosse un amore incestuoso tra padre e figlia, cosa assolutamente da non credere. C'era un amore paterno straordinario, un amore filiale altrettanto straordinario, ma non certo incestuoso. Solo che però la moglie pazza costrinse la figlia a scapparsene di casa dopo un tentativo di suicidio, perché era naturalmente la ragazza non accettava l'idea che la madre potesse pensare questo di lei. E queste cose poi le ritroviamo comunque nei sei personaggi, nelle varie novelle, nei romanzi, insomma in tutto ciò che Pirandello scrisse. E poi fuori dalla famiglia naturalmente c'era Marta Abba, che a un certo punto lui, o meglio attraverso la sua penna, lui definisce un miraggio, un sogno. Ecco, come condizionò questo sogno l'opera di Pirandello? Tutto ciò che scrisse dopo l'incontro con Marta Abba, che avvenne nel 1925, quando lui aveva 58 anni e Marta Abba 25, perché nacque nel 1900, ecco, tutto ciò che scrisse viene da lì, da questo innamoramento immediato, totale, direi ossessivo, esclusivo, senza speranza, perché fu una passione a senso unico, perché Marta Abba non accettò il ruolo di amante, non ci fu mai un rapporto fisico tra i due, e lui, avendoci tentato una volta e poi essendosene pentito amaramente, trasformò il rapporto in la musa ispiratrice e il grande artista che da quella musa, diciamo così, che grazie a quella musa riesce a creare opere eterne e straordinarie. Ecco, questo ma fu un amore proprio a senso unico. Invece fino ad ora si era pensato, e i critici avevano, diciamo così, aiutato noi tutti a pensarlo, che Pirandello pirandellianamente si fosse negato lui a Marta Abba, perché vecchio e inadeguato non avrebbe accettato di avere un rapporto fisico con lei. Invece è tutto il contrario, Pirandello era un uomo normale, sessofobico, perché veniva da una famiglia siciliana, come del resto quella della moglie, appunto sessofobica, una famiglia ottocentesca, di tradizione tribale, ecco, quindi le gelosie tremende, eccetera, eccetera. Lui però proprio con Marta Abba non ebbe nessun rapporto fisico, e non fu lui a negarsi, ma fu lei, e lui trasformò questo rapporto in maniera ossessiva, lo fece diventare un amore di carta, ecco, è più scritto che reale, e resta nelle quasi 600 lettere che Pirandello mandò a Marta Abba dal 1925, quando si incontrarono, al 1936, quando lui morì. Grazie a Matteo Collura, autore del Gioco delle Parti. Grazie a voi. A proposito di Pirandello, vi segnalo che è stato pubblicato di Carlo Ferrucci un libro proprio sul rapporto con Marta Abba, La Musa Ritrosa, è pubblicata da Clueb, 174 pagine, 16 euro. E poi uno studio molto curioso ma interessante, Quando il nome è una cosa seria, di Pasquale Marzano, 208 pagine, 24 euro, edizioni ETS, nel quale l'autore studia appunto il significato dei titoli dei personaggi, oltre 3.000, delle opere di Pirandello. E poi naturalmente ci sono molti titoli di Pirandello Pirandello, sono diverse le case editrici che lo stanno ripubblicando. Newton Compton ha pubblicato l'anno scorso l'opera Omnia, 3.590 pagine, €29,90, e poi sta ripubblicando vari titoli, Sei personaggi in cerca d'autore, Il fumatia Pascal, L'esclusa. Poi c'è un testo inedito pubblicato da Ibis, Non parlo di me, è un testo autobiografico del 1933, 72 pagine, €7. Poi ci sono le edizioni di Giunti, che ha pubblicato Il fumatia Pascal, Einaudi, Racconti fantastici. Mondadori sta ripubblicando in versione economica Le maschere nude, cioè l'intero corpus delle opere teatrali, sono 10 volumi, ciascuno costa €9,50. E poi Garzanti, che ripubblica Novelle per un anno, ne è uscito appena adesso un nuovo volume, 546 pagine, €10. Troviamo La rallegrata, L'uomo solo e La mosca. Prima delle informazioni sul traffico, vi segnalo che dal 6 ottobre inizia a Trieste la Barcolana di Carta. Si svolge all'area barcolana del Gas Naturale presso le rive di Trieste ed è un appuntamento letterario che è in parallelo naturalmente col grande appuntamento nautico, un'iniziativa che nasce dalla libreria Lovat in collaborazione con Mursi e che darà luogo a molti appuntamenti anche per bambini, ripeto, dal 6 al 10 ottobre. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Restiamo negli anni di Pirandello con una sua coetanea, una scrittrice che fu anch'ella capace di sfidare convenzioni e conformismi, e cioè Gertrude Stein, la scrittrice americana di famiglia di origine tedesca, di cui Archinto pubblica una chicca, Flirtare i grandi magazzini, 70 pagine, €10,50, tradotto da Marco Rossari. Si tratta di alcuni scritti che sono raccolti qui per la prima volta, dei quali è particolarmente interessante, come sempre, peraltro, il linguaggio, una sorta talvolta di gioco sperimentale col quale la scrittrice usa le parole scomponendo il discorso con una tecnica simile a quella contemporanea del cubismo in pittura. E qui troviamo della Stein scritti su pittori, artisti contemporanei e sull'arte di creare capolavori e sulla sindrome di cui siamo tutti ben consapevoli, quella di far compere, appunto, come indica il titolo, come antidoto a una vita uggiosa, un concetto questo sul quale la scrittrice ricama per 4 pagine usando sempre le stesse parole, con un effetto implacabile e che conferma appunto la sua particolare vena stilistica. Di Gertrude Stein escono altri 2 volumi che sono entrambi pubblicati da Liberi Libri. Il primo è Geografia e Drammi, 418 pagine, €20, e tradotto da Fiorenzo Giuliano. E in questo volume, tra l'altro, troviamo lo scritto Emily Sacra, al quale appartiene forse la riga più famosa della Stein, quella che dice una rosa è una rosa è una rosa. Il secondo volume è Opere Ultime Drammi, 526 pagine, €24, curato da Marina Morbiducci, tradotto dalla stessa Marina Morbiducci con Fiorenzo Giuliano, Camillo Balsamo e Maria Rosa Piranio. Leggere Stein, avverte Nadia Fusini nella introduzione al primo volume, è sempre un incontro rinfrescante, spaesante, e per questo, aggiunge, consiglio ai lettori il medesimo esercizio a vantaggio di un'ecologia della mente oltremodo necessaria in tempi di conformismo letterario. Lo spaesamento, lo straniamento cui la prosa steiniana espone rinnova in noi lettori la coscienza della lingua. Anche qui si tratta di testi sparsi, spesso brevissimi, sempre giocati con questa lingua singolare, spesso ripetitiva, difficile da tradurre. La Morbiducci ricorda che una studiosa aveva scritto come per Stein la lingua non serve soltanto per rappresentare e mediare la realtà, ma per substanziarla. Essa, la lingua, è un'entità che si può toccare, sentire, modellare, animare, incontrare. La lingua è una cosa che si può afferrare. La sua fede nella materialità della lingua indusse Stein a usare le parole per riprodurre quello che i corpi e gli oggetti sentono, arrivando all'essenza di quanto fanno e sono. Insomma, un'autentica funambola della parola che qui troviamo esercitarsi anche in microdrammi, dove gli attori, nota sempre Fusini, sono le parole. Un testo che potrebbe essere una scoperta è quello pubblicato da Robin, Divagazioni sulla felicità, un caso letterario, 130 pagine, €10, ed è curato da Lilli Monfregola. Dico potrebbe essere perché il libro viene attribuito per la prima volta a un altro mostro sacro come Oscar Wilde, e infatti esce sotto la firma iniziale, originale, quella di Oscar Fingal. Questo libro, spiega la curatrice, rappresenta il classico caso di letteratura di mezzo, alla quale appartengono, scrive, tutti i testi la cui attribuzione è controversa e i testi sono pubblicati sotto pseudonimo. Si tratta, aggiunge, di anime in pena, costrette a seguire la moda e le correnti del revisionismo storico. Testi con profonde crisi di identità, libri che saltellano invece di fluttuare nella massa deperibile dei testi imperfetti o restare immobili e splendenti come statue classiche nello scintillante museo della letteratura perfetta. In effetti questo testo uscì nel 1919 in Italia con la firma appunto di Oscar Fingal, ma è stato attribuito a Wilde innanzitutto partendo dal nome autentico di Wilde, che si chiamava Oscar Fingal, appunto, O'Flaherty Wills Wilde. Ma ci sono altri elementi che inducono la curatrice ad attribuire al grande scrittore irlandese questo testo. Fra l'altro, una ragione cronologica, e cioè il fatto che questo testo venne pubblicato quando Wilde era stato già condannato per omosessualità, e tra l'altro era stato condannato anche a vedersi espropriati tutti i diritti delle opere che avesse pubblicato successivamente, il che potrebbe spiegare come avesse deciso di ricorrere a uno pseudonimo. Comunque, troviamo in questo libro delle riflessioni sulla felicità, in cui si parla di lavoro, di salute, di bellezza, di tolleranza, di ricchezza. E proprio su questo vi presento alcune righe. Il denaro è il perno su cui gira tutta la vana vita moderna, la chiave magica che apre le porte di molte realizzazioni, la ruota veloce che porta per ogni dove la noia irrequieta, l'ala che innalza ogni meschina ambizione. Ma la ricchezza non è una condizione indispensabile per la felicità, anzi, forse, rende la sua conquista più difficile e disagevole. Il ricco, che ha potuto accontentare molti dei suoi desideri, ha inasprito la brama di realizzazione di quegli altri per i quali la ricchezza non ha alcun potere. Ha liberati alcuni dannati alla bolgia, ma gli altri, delusi, gridano e si disperano più di prima. Non è possedere che dà gioia, è comprendere e godere. E le cose che più danno godimento allo spirito non si possono acquistare con le ricchezze. Il plenilunio, le aurore e i tramonti, la musica, la poesia, si concedono a qualunque povero che sa comprenderli e sa gioirne. Di Oscar Wilde, Newton Compton ha pubblicato recentemente L'importanza di chiamarsi Ernesto, Il ventaglio di Lady Windermere, Una donna senza importanza e Un marito ideale, con la introduzione di Masolino d'Amico. Sono 160 pagine, 4,90 euro. Ultimi arrivi. Vi segnalo di Elie Wiesel, L'alba, è pubblicato da Guanda, 86 pagine, 11 euro, ed è tradotto da Emanuela Fubini. E questa è la riproposizione di un romanzo del 1960, magari utile da rileggere e da riprendere in questo momento in cui si riparla di riapertura di trattative fra Israele e i palestinesi. L'altro libro è invece un libro legato alle uscite cinematografiche, cioè il libro di Martin Booth, che è uno scrittore e sceneggiatore inglese, The American, è pubblicato da Newton Compton, 278 pagine, 9,90 euro, tradotto da Fabio Bernabei, ed è il libro che ha dato lo spunto al film di Anthony Corbin con George Clooney nelle sale proprio in questi giorni. Mentre è stato nelle sale nelle scorse settimane, ma credo che si possa ancora rivedere per chi l'ha perso, è un film su un grande poeta inglese, si intitola Bright Star, il film è di Jane Campion, ed è appunto dedicato a una storia d'amore quasi impossibile del grande poeta John Keats. In questa occasione vi segnalo che è uscito il libro Leggiadra Stella, pubblicato da Archinto, 86 pagine, 10,50 euro, che contiene appunto le lettere a Fanny Brawne che danno lo spunto alla trama di questo film, in cui si racconta di questa storia d'amore che coinvolse il grande poeta morto 27enne a Roma. Le lettere, ha scritto Nadia Fusini, sono considerate tra le più belle lettere d'amore mai scritte. Il confettino. Vi segnalo oggi di Nicoletta Martinelli e Rossana Sisti, Visto si stampi, viaggio nel mondo dell'informazione, come nasce un quotidiano, ed è illustrato il libro da Stefano Misesti, pubblicato da San Paolo, 128 pagine, costa 17 euro. Un libro diviso in tre parti per capire come è fatta l'informazione, dunque una giornata in redazione, le parole dell'informazione e poi i nuovi mezzi di comunicazione. È un libro che nasce dall'esperienza del settimanale per ragazzi dell'Avvenire, Popotus, un libro vivace e interessante per avvicinare anche i più giovani al al mondo dell'informazione e naturalmente noi lo speriamo particolarmente qui, appassionare i giovani al gusto dell'informazione e alla voglia di ragionare con la propria testa. Ai genitori interessati a questo tema segnalo un classico sul tema del giornalismo, che è Sul giornalismo, di Joseph Pulitzer, che è un mitico giornalista ed editore americano. Il libro è pubblicato da Bollati Boringhieri, 130 pagine, 10 euro, ed è tradotto da Simona Garavelli. Sono qui raccolti due saggi, il primo del 1904, dove Pulitzer espone con chiarezza il modo in cui si dovrebbe formare un buon giornalista e spiega le funzioni e l'utilità anche di una scuola di giornalismo, che cosa si dovrebbe insegnare. Lui stesso aveva contribuito a fondare alla Columbia University, una grande scuola di giornalismo. La stampa, osservava Pulitzer, è l'unico grande potere organizzato a sostenere la causa della virtù civica in modo attivo e come categoria. La stampa è l'unica a lavorare per il pubblico interesse. Questa naturalmente è la visione di Pulitzer e capite quanta strada e non in meglio abbiamo fatto da quelle intuizioni. Le trasformazioni sono state, direi, drammatiche rispetto a quei tempi e quindi vale la pena di rileggere una piccola Bibbia del vero e autentico giornalismo. Un giornalista italiano dei nostri giorni, questo del Corriere della Sera, è Federico Fubini, che con la Terza pubblica Destini di frontiera. Sono nove storie queste, nove reportage in aree estreme, spesso ai confini, tra popolazioni che si abituano a uscire da questa condizione incontrando e incrociandosi altre culture. Non c'è poi bisogno di andare molto lontano, si conclude questo libro per esempio con l'esperienza di alcuni esuli uiguri scappati dalla Cina che transitarono sostanzialmente per errore dal campo di Guantanamo e poi sono arrivati in Albania, che fu l'unico paese che li accolse in Europa. E con questo ringrazio Vittorio Musini in redazione e Peter Bescapè in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, unlibro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete riascoltare sempre questa e tutte le nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento la settimana prossima.